Quello che hanno sbagliato i sondaggi, e questo io ho avuto modo di dirlo molto spesso nelle ultime settimane, sono state le misure. Cioè tutti i sondaggi davano Lula in vantaggio e Bolsonaro dietro sostanzialmente. Tuttavia le metodologie che sono usate spesso non sono così scientifiche da garantire delle misure certe, per cui non era facile prevedere. Alla fine in realtà Lula non è stato sovraestimato, era stato sottostimato Bolsonaro. Tuttavia questo era uno scenario prevedibile e ampiamente previsto da entrambi gli schieramenti, quindi niente di strano. Adesso ovviamente si apre una nuova campagna, una campagna di ballottaggio che sarà molto forse più radicale nei contenuti. Bolsonaro cercherà di puntare un po' più sull'antipolitica per prendere quelle persone che non sono andate a votare, e poi cavalcherà e continuerà a cavalcare l'onda dell'antipecismo, né? Come si chiama qui, cioè questa ondata di denigrazione sistematica del Partito dei Lavoratori, che è partito in realtà nel 2013 e che praticamente non si è mai arrestata e lo ha portato alle elezioni quattro anni fa. Quindi siamo di fronte a uno scenario diverso. Dal canto suo Lula ha già aperto, diciamo, la porta ad altre alleanze che poi sono ridotte in termini di numeri, perché poi i candidati non erano tantissimi e comunque gli altri due, diciamo il terzo e il quarto classificato, non hanno raccolto grandissimi consensi. Tuttavia l'MDB, che sarebbe il partito della candidata Tebeci, ha ottenuto intorno al 5%, e questo comunque è un bacino elettorale interessante. Tra l'altro l'MDB è un partito di centro che, come dire, tradizionalmente è sempre cercato dalla sinistra in occasione del ballottaggio, quindi siamo più o meno di fronte a tutti degli scenari prevedibili. L'analisi del voto è presto fatta, nel senso che nei tre stati principali dal punto di vista economico e dal punto di vista del numero di elettori, cioè San Paolo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, Lula sostanzialmente non ha sfondato. Bolsonaro ha vinto a mani basse a Rio de Janeiro, soprattutto il candidato governatore ha vinto al primo turno, e a San Paolo, mentre in città più o meno ha tenuto, a livello di Stato insomma non è andato molto lontano. Infatti San Paolo è il centro economico e anche il centro un po' conservatore, diciamo così, dal punto di vista imprenditoriale, centro, diciamo, del liberismo brasiliano, per cui è sempre un po' ostico per certi versi, tuttavia ci si aspettava un risultato migliore. In Minas Gerais non ha vinto un candidato di un partito alleato di Bolsonaro, ma neanche alleato di Lula. In realtà è stato eletto Zema, che è di uno del Partito Novo, il cui candidato presidente ha preso lo 0, qualcosa, ma che è stato un ottimo amministratore, e questo gli viene riconosciuto. In realtà io nelle ultime ore, negli ultimi giorni, io ho viaggiato molto tra Rio e San Paolo, ho fatto molte interviste, e in realtà il bolsonarismo non è per niente in crisi, mettiamola così. Quindi tutto quel richiamo ai valori più conservatori, al liberismo, allo Stato zero, all'esplorazione anche dell'Amazzonia e tutto il legame che c'è dal punto di vista religioso con le organizzazioni evangeliche è fortissimo, è presente nel paese. Quindi anche tutto quello che viene visto in Europa come estremamente grave e critico, diciamo, nei confronti di Bolsonaro, nell'elettorato bianco, tradizionale, conservatore, liberista, non è visto con critica particolare, per cui ha potuto comunque ottenere un 43-42%, insomma un risultato notevole per quello che ha fatto, diciamo così. Questo è lo scenario. Adesso sarà una campagna molto dura, molto difficile, e a quel punto gli animi si scalderanno. Devo dire il primo turno è stato molto tranquillo, non ci sono stati episodi gravi di violenza, però il secondo turno ci sarà se possibile una ulteriore polarizzazione rispetto a uno scenario già estremamente polarizzato e diviso. Sulla base di quello che dicevi prima dell'analisi del voto, quindi Lula che non sfonda nei paesi più ricchi, quindi in un certo senso ha fatto anche bene a dichiarare, come abbiamo letto qualche giorno fa, sarò il presidente di tutti ma con la precedenza ai poveri. Sì, in realtà quella è la questione. Il discorso, diciamo, del bolsonarista medio, quindi un profilo di classe media bianco, è sempre stato molto critico nei confronti dei poveri. Cioè il PT, il Partito dei Lavoratori, lui è sempre stato criticato dai più conservatori per aver dato troppo ai poveri, per aver garantito quote di ingresso all'università ai neri, cioè questo favoritismo visto un po' come assistenzialismo. Ora cosa accade? Dalla pandemia e soprattutto in occasione del varo di questi bonus dopo l'inflazione, Bolsonaro ha capito che avrebbe dovuto, piuttosto che criticare i poveri e chiudere loro la porta, avrebbe dovuto inserirli nelle sue politiche, e questo si è trasformato in assistenzialismo da parte sua. E poi c'è un dato fondamentale: Lula è ancora forte tra le donne, i cattolici, cattolici e le persone che guadagnano poco, insomma in 300-400 euro al mese, è forte in questa sezione, diciamo, della popolazione, quindi quelli più poveri e con la più bassa scolarizzazione. Quindi è chiaro che Bolsonaro adesso dirà: lavoreremo anche per loro, come dire, come avete avuto i bonus in occasione del primo turno, mi inventerò qualcosa anche per il secondo turno, e certamente cercherà di erodere la base elettorale di Lula, che è appunto questa qua di persone con una più bassa rendita, no? Quindi questa è una chiara strategia, perché per il resto è andato bene tuttavia Bolsonaro, soprattutto a livello parlamentare. Anche se Lula dovesse vincere al secondo turno, in Parlamento avrebbe un'opposizione fortissima, radicalizzata e molto consistente.